lenta e mi surten botella di sanguada orchestra de ciuche e danza indemoniata là nella valera gira la noce la gira la pala la maia iure e loci là nella valera gira la noce la gira la pala la maia iure e loci la fisarmonica bufa e bella già palfia mazzurca de marziani suta il sculura la gonola se svolza se per la giarrettiera che borna in fancaiaci all'uomo in canotiera la gonola se svolza se per la giarrettiera che borna in fancaiaci all'uomo in canotiera mi conceda questo ballo che bel qui, che bel qui ma son qui con il maresciallo bon per lì, bon per lui signorina dei bei occhi manca il qui, manca il qui sì però lei non mi tocchi oh Gesù, oh Gesù sottana danza la canotiera lei sa di bagno schiuma lui puzza di barbera signorina in questi anni dove si era nasconduta una donna come lei non mai neanche conosciuta signorina in questi anni dove si era nasconduta una donna come lei non mai neanche conosciuta mi conceda questo ballo che bel qui, che bel qui ma sono qui con il maresciallo bon per lui, bon per lui signorina lei bei occhi manca il qui, manca il qui sì però lei non mi tocchi oh Gesù, oh Gesù in campo si incontrano a metà e fan partire un lampo lei che è figlia di signori balla con un contadino sembra un albero sudato ma lo vuole più vicino lei che è figlia di signori balla con un contadino sembra un albero sudato ma lo vuole più vicino son contenta di ballare che bei spal che bei spal anche a me mi fa piacere fe di balle il maresciallo non mi voglio più fermare neanche a me, neanche a me e la voglio anche baciare e mi par proprio un bel mestiere.